Ad alta voce, edizione 20 anni. Tommaso Ragno legge Panchine di Beppe Sebaste. Blow up. È curioso che abbia cominciato da Ginevra, però si spiega. Ginevra è stata il mio estero, la mia miniaturizzazione dell'America e dell'Occidente. Prolungamento e futuro, profezia dell'Italia che conoscevo. Ero incantato dai distributori automatici che vendevano di tutto, a tutte le ore. A volte andavo nei sotterranei della stazione solo per quello, dai negozi aperti la notte e la domenica. Ero incantato dai riflessi al neon che decoravano le acque del lago di mille colori e dal contrasto tra quella bellezza e l'aggressività della fonte che la irradiava, cioè i nomi di tutte le banche del mondo in tutte le lingue del mondo. Leggerli mi dava le vertigini. Ero incantato dalla mescolanza incredibile di etnie e di lingue, dal cosmopolitismo così denso che quando ero seduto al bar con un paio di amici potevo essere certo che al nostro tavolo si contassero almeno 5 passaporti di diverse nazionalità. Io ne ho uno solo. Ai miei occhi era una città di allegri avventurieri, tipo Corto Maltese o Mackerel il Gabbiere, marinai che non si vedono mai su una barca. Una città, infine, che dava un agio intossicante, come il lampione acceso per le falene in una notte d'estate. Io ero la falena, naturalmente, e rimasi appiccicato a quella città, pur senza bruciarmi, per alcuni anni indimenticabili e inconcludenti. Una volta disincantato, pagai il mio debito sentimentale ritraducendo le rêveries del ginevrino Jean-Jacques Rousseau. Con altri scrittori e fotografi feci una descrizione del lago Le Mano. La mia appartenenza a quella città-stato era ormai quasi perfetta. Infatti me ne andai per ricominciare da capo da qualche altra parte. Quando parlo di agio intossicante, intendo anche una forma sottile di censura, quella di ottenere tutto, di ricevere dal potere pubblico o privato, che nella lungimirante Svizzera già coincidevano, l'oggetto di qualunque rivendicazione, qualunque desiderio pubblicamente espresso. Non si dava il tempo di organizzare politicamente una domanda di felicità che subito veniva esaudita, quindi neutralizzata. Quando arrivai a Ginevra la prima volta, nei primi anni Ottanta, seppi che nel lago c'era una nave a disposizione dei tossici. La città abbondava di parchi e i parchi abbondavano di bellissime panchine. Mi piacevano molto quelle di Parc Bertrand, in un quartiere residenziale in cui si trovava la Cité Universitaire, dove alloggiavo il primo anno. C'era una radura che mi ricordava il prato del parco di Blow Up e, stando lì, aspettavo anch'io che mi capitasse chissà quale avventura. Eppure, dopo il primo anno, cominciai a diffidare di quella accoglienza, perfino di quelle panchine così pulite e invitanti che mi facevano addormentare sempre più spesso. In un testo che scrissi allora su Ginevra, Café Suisse, ritrovo queste frasi. Appena arrivato, Beatrice mi disse che in questa città ci si trova soli con se stessi. Quello che ho notato io è che c'è davvero molto spazio. Dovresti vedere quanti parchi e quante panchine libere ci sono. Anche senza parchi, lo dico spesso nelle lettere agli amici, le panchine sono quasi tutte belle, lisce e libere. Adesso però continuo a camminare e, grazie al cielo, non ho voglia di sedermi. E più avanti, seduto su una panchina del porto, vedo la città dal punto di vista preciso in cui si collocano i margini. Resto sulla soglia. La gente, qui, quando c'è il sole, passeggia avanti e indietro, leccando i gelati. Io guardo davanti a me e aspetto di essere più stanco. Ma tutto quel libro, oggi, mi sembra una meditazione sull'abitare e sulle panchine, sull'osservazione della vita degli altri. Chiedersi, ad esempio, cosa sia abitare d'inverno in una casa che si affaccia sul lago, in quella lunga periferia costellata di panchine invisibili, dove l'aria e la nebbia portano a volte un profumo appena percettibile, un alito lieve e quasi inodore, come di burro sul pane. Ricordo i cartelli stradali che invitavano a dare la precedenza alla cortesia. Ricordo la cortesia raggelata e stampata sui volti dei negozianti. Era l'epoca della paura della guerra, calda, non fredda, l'epoca dei missili a Comiso, di Ronald Reagan e dei presidenti dell'URSS che si accavallavano e morivano dopo un raffreddore, delle grandi manifestazioni per la pace, dello striscione magnifico delle donne, fuori la guerra dalla storia. Ma a Ginevra sembrava che la guerra non riguardasse la vita della gente. C'erano il Salève e le Alpi intorno a proteggerla. C'erano la cortesia e le panchine. C'erano Rousseau, Amiel, Godard, l'esplorazione del mondo interiore, i viaggi intorno alla propria camera, l'urgenza del diario e delle confessioni. Ogni tanto faccio ritorno a Ginevra e devo ammettere che questa città è una festa delle panchine. Nuovi ricordi affiorano. Le passeggiate con i professori Starobinsky o Steiner nel parco dell'università o nella città vecchia, nella mia timida inadeguatezza. Il giardino di Michel Butor, quando abitava alla frontiera. Le panchine di pietra e legno in Rue de la Corinthérie, tra l'università e il Rodano. Davvero sembra che nessuno si vergogni a stare seduto in pubblico. Però un anno fa mi ritrovai seduto su una panchina di fronte al lago, zona centrale. La sera prima avevo lasciato mio figlio in un taxi in quello stesso quartiere ormai svuotato dagli abitanti, solo negozi chiusi, uffici, palazzi di vetro e acciaio. Lui aveva paura a quell'ora, perché il centro è percorso da bande che promettono violenza. La periferia, nel suo senso più temibile, si trova nel cuore della città. Ecco un'altra cosa in cui Ginevra ha giocato d'anticipo. Quel giorno, dunque, era pomeriggio. Spinto da una fame improvvisa, avevo comprato hamburger con patatine fritte e lo mangiai di gusto sulla panchina perché tutti gli altri locali non mi piacevano per una ragione o per un'altra e volevo stare all'aperto. Ero vestito elegantemente, perché più tardi dovevo andare a una cena cerimoniosa in un posto di lusso. Per un po' sono rimasto lì, seduto con le dita unte a guardare la gente che rigorosamente non mi ha degnato di uno sguardo. Margini. Né luogo di rinuncia né luogo di eroismo, semplicemente di sosta. Ma chi aspetta il bus o esce dal metrò, le gambe stanche dopo una giornata di lavoro, troverà sempre più raramente una panchina. Scompaiono perché sospettate di attirare i drogati e i senza casa. Quando era ministro dell'interno, Nicolas Sarkozy propose di eliminare le panchine ai piedi degli immobili mentre il sindaco di Tolosa, la sera, faceva copiosamente innaffiare le panchine per dissuadere i miserabili dal sistemarvisi per la notte. Sopprimere le panchine è diventato un modo politicamente corretto di rimuovere i poveri. Lo scorso novembre, a Roma, mentre si procedeva allo sgombero e alle espulsioni di Rom, alcuni lavoratori rumeni, pestati da squadre di neofascisti, venivano intervistati dai telegiornali sullo sfondo di immancabili panchine in giardinetti dimessi di periferia. Negli stessi giorni, a Pordenone, alcuni abitanti coprivano con triangoli acuminati di alluminio le panchine di un quartiere per impedire non solo di sedersi, ma persino di appoggiarvi cose e oggetti, per impedire soprattutto i bivacchi che sarebbero avvenuti su quelle panchine. Ho usato apposta la parola spregiativa bivacco. Se avessi scritto picnic, quell'acuminato impedimento sarebbe sembrato più malevolo e grottesco. Eppure è la stessa cosa. Picnic o pranzi al sacco di turisti si vedono spesso sulle panchine intorno al Castello Sforzesco a Milano o a Castel Sant'Angelo a Roma. Nessuno del resto chiamerebbe extracomunitari una coppia di grassocci statunitensi o di rosei svizzeri, perché extracomunitari sono solo i poveri. O meglio, i poveri sono ormai gli extracomunitari, clandestini non sul piano geografico, ma ontologico. Che oggi sulle panchine soggiornino gli extracomunitari, qualunque senso abbia questa parola, anche gli anziani sono esclusi dalla comunità dei consumatori, lo confermano le sparizioni e i divieti in alcune città del nord-est, ultima delle quali Padova, sindaco di S. Panchine eliminate per scoraggiare la sosta degli indesiderabili. Nel frattempo, già da molti anni è in atto nel nostro e in altri paesi una guerra contro i poveri, non contro la povertà, di cui la rimozione delle panchine è solo un tassello. A parte il fatto che sulle panchine non si siedono solo i barboni, ma chiunque, non è pazzesco che si voglia lucidamente impedire ai senza casa di sistemarsi sulle panchine come se li si punisse di una nefandezza. Mi viene in mente la parodia delle banche in un vecchio film di Benigni. Solo se hai già 1 miliardo ti prestano 1 milione. Come se il verduraio, per darti 1 chilo di melanzane a credito, si assicurasse che tu ne abbia già 10 chili. A proposito, banche e panchine vengono dalla stessa parola, ma questo è un altro discorso. Forse troppo spesso abbiamo dato per scontate alcune abitudini urbanistiche, cioè politiche, come l'orario di chiusura di parchi e giardini. Credo risalga a Jack London la prima descrizione del popolo dei senza casa e senza sonno, e la seguente constatazione: è il potere costituito a vietare che la gente senza fissa dimora dorma di notte. In Il popolo degli abissi, London descrive le migrazioni notturne dei miserabili sulle strade di Londra, a cui è vietato riposarsi. Ehi tu, fuori dai piedi! Green Park, scriveva, gode della reputazione di essere il parco che spalanca per primo i cancelli. Le leggi prescrivono che questi senza dimora vaghino tutta la notte per le strade della città. Dai portoni e dai sottopassi vengono allontanati, dai parchi vengono chiusi fuori. Ovviamente tutto ciò ha un unico fine: privarli di ogni possibilità di dormire. Ok, le autorità hanno il potere di privarli del sonno e di qualunque altra cosa. Ma allora perché alle 5 del mattino spalancano i cancelli dei parchi e lasciano che quegli stessi senza casa, cui finora hanno proibito di dormire, vi sciamino dentro per farsi qualche ora di sonno? Se è davvero intenzione delle autorità impedirgli di dormire, perché glielo permettono dopo le 5 del mattino? E se al contrario non è questa la loro intenzione, perché allora non li lasciano dormire prima delle 5? Franco La Cecla, amico antropologo con cui ho condiviso case e panchine, in un suo scritto si soffermava sul nuovo galateo urbano. Dormire in pubblico è considerato una pratica non solo oscena, ma soprattutto a rischio dell'incolumità di chi dorme, nonostante secoli di siesta, di stravaccamenti e di riposo in pubblico. in altre culture e in altre città, specie in quelle asiatiche, ciò sarebbe inconcepibile. Nelle città europee e americane il riposo diventa, se esercitato in pubblico, altrettanto osceno di un atto sessuale. A inaugurare in Italia la recente rappresaglia sociale contro il popolo delle panchine fu l'ex sindaco leghista di Treviso, Gentilini, che fece ripulire una piazza da ogni tipo di sedile in funzione anti-immigrati. L'opposizione di sinistra si defilò dalle proteste, non volendo rischiare di cavalcare una rivolta pauperistica. Ma un gruppo di dissidenti è riuscito tempo dopo a rimettere le panchine al loro posto, con tanto di saldatrice e fiamma ossidrica. Per impedire ai barboni di sedersi a Natale, le panchine furono segate, letteralmente, anche a Trieste, dove però si registrò una protesta tanto inattesa quanto significativa. «La città in piazza con i clochard», titolava un articolo di Paolo Rumiz il 9 dicembre 2006. Stavolta qualcosa si è rotto. Dopo il primo blitz dei vigili armati di sega, un mese fa, in piazza Venezia, una delle più antiche del centro, è cambiata l'aria. Sul giornale locale sono piovute lettere indignate, piene di parole come rabbia e vergogna. Sono nati movimenti. Il tamtam è cresciuto anche tra gli anziani della città, utenti consolidati delle panche cittadine. Un'associazione giovanile ha acquistato un sedile nuovo e l'ha cementato sul luogo del delitto, subendo per ritorsione una denuncia e persino lo sfratto da parte del sindaco. E quando il comune di centrodestra, senza fare una piega, ha compiuto un secondo blitz in un giardino di periferia, il confronto è diventato guerra aperta. «Come può venire in mente di segare delle panchine?» sbottò lo scrittore triestino Claudio Magris. «Le panchine sono quelle cose dove quasi tutti, grazie a Dio, abbiamo passato momenti felici e non certo in compagnia di assessori o scrittori. L'attore veneto Marco Paolini esortò i triestini a mettersi sulla schiena un bel numero 13, come i giocatori di calcio d'una volta quando dovevano restare fuori campo come riserve, e aggiunse: intorno a noi è pieno di gente pronta a toglierci di sotto il culo la tua panchina gratuita e a offrirci mille alternative a pagamento. Non credo che sia per caso che segano le panchine nelle piazze e ne mettono di nuove nei centri commerciali. E Rumiz, stare su quelle panchine di legno rosso, era il mio modo di segnare il territorio, di dire: questo luogo è un po' mio, fa parte della mia Trieste. Sedendomi lì, accanto alla fontana, celebravo la comunità e i valori in cui essa si riconosce. Ribadivo che lo spazio pubblico ha un valore irrinunciabile, specie oggi che tutto diventa privato, anche l'aria. Dalle montagne del Vajont, lo scrittore boscaiolo Mauro Corona dichiarava di essere esterrefatto. Segare le panchine è una cosa vergognosa e incivile. Lasciamo stare la vigliaccata contro i barboni. La storia è un'altra. La panchina è anche mia. Io voglio sedermi quando vengo a Trieste. E lo scrittore triestino Pino Roveredo: che la gente vada a sedersi anche sul Teatro Romano, così vediamo se abbattono anche quello. L'articolo riportava anche gli interventi della gente comune. Se porteremo de casa una panca con le riodele, ci porteremo una panchina con le ruote, proponeva una signora con la sporta della spesa. Negli altri giardini pubblici, la gente, quando vede un vigile, si afferra alle panchine perché non si sa mai, rideva un tipo brizzolato in maglione davanti all'edicola. In comuni galafobia del cul, ghignava una sboccata signora col bastone. Appena uno si siede, gli corrono dietro con la sega. Un altro, azzimato in cravatta, aggiunse saggiamente: non sono i barboni che danno fastidio, siamo noi. Perché vogliamo sederci gratis, senza consumare. Pausa. a proposito del consumare. Confesso che nella mia vita ho passato un mucchio di tempo anche ai tavolini di bar e di caffè, alternati allegramente alle panchine. Per questo mi ha colpito molto questo severo e pascaliano brano del filosofo Emmanuel Levinas. Il caffè è la casa aperta, a livello della strada, luogo della socialità facile, senza responsabilità reciproca. Si entra senza necessità, ci si siede senza stanchezza, si beve senza sete, pur di non restare nella propria stanza. Voi sapete che tutte le disgrazie provengono dalla nostra incapacità di restare soli nella nostra stanza. Il caffè non è un luogo, ma un non luogo, per una non società, per una società senza solidarietà, senza domani, senza impegni, senza interessi comuni. Società del gioco. Si sta lì, ciascuno al proprio tavolino, vicino alla propria tazza o al proprio bicchiere, ci si rilassa assolutamente, al punto di non sentirsi in obbligo verso niente e nessuno. Ed è perché si può andare al caffè a rilassarsi che si sopportano gli orrori e le ingiustizie di un mondo senza anima. Il mondo come gioco, dal quale ognuno può ritirarsi per esistere solo per se stesso, luogo di dimenticanza, dell'oblio dell'altro. Ecco il caffè. Scopo della citazione non era stigmatizzare il bar, ma l'indifferenza, la sazietà, l'uso sterile della noia. Fine della pausa. Il piccolo dell'11 dicembre 2006 riportò la cronaca della manifestazione. Trieste, corteo fino in Piazza Unità per protestare contro il taglio delle panchine. La protesta contro la decisione dell'assessore ai lavori pubblici si è trasformata in una kermesse popolare che ha visto la partecipazione di Vinicio Capossela. Fu un'allegra festa con musica e canzoni e cartelli inneggianti alle panchine. Una sagra popolare dell'essere viandanti. Di passaggio, una festa della gratuità e della cittadinanza. Di colpo le panchine, oggetti ignorati dai più o dati per scontati, al massimo incasellati dagli assessori nel cosiddetto arredo urbano di molti municipi italiani, sono diventate oggetti politici, risvegliando l'attenzione della gente. Uscite dalle poesie di Jacques Prévert o dalle ballate di Georges Brassens, maestro di De André, le panchine si rivelano, mentre spariscono, non più solo un decoro degli innamorati, ma valore d'uso per tutti e per ciascuno. Ci si accorge che le panchine sono l'unico posto gratuito delle nostre città, l'unico contrassegno di una cittadinanza che non vuole per forza entrare nei ranghi dei clienti per esistere in pubblico, per continuare a sedersi all'aperto. È proprio vero, come scriveva un altro filosofo, che non c'è niente di meno marginale della questione dei margini. Tommaso Ragno ha letto Panchine di Beppe Sebaste, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad Altavoce Edizione 20 anni è un programma Rai Radio 3.